sono cavoli miei e di tutti quelli che hanno veramente interesse per i bambini malati di cancro. Siamo in un mondo, viviamo in un mondo in cui l'interesse per i minori è proclamato ma assolutamente poco esercitato, in particolare poi se sono ancora malati e fragili. C'è una mancanza di rispetto verso tutto quello che è l'interesse dei minori e quindi noi vogliamo affermarlo nel mese di sensibilizzazione al cancro infantile, che è il mese a livello mondiale di sensibilizzazione. Lo facciamo con un progetto, appoggiando un progetto che è quello del microbiota intestinale. Perché? Perché tra le tante cose che noi rivendichiamo è la mancanza di farmaci, di terapie studiate per il bambino e meno tossiche, e del microbiota che noi finanziamo da 10 anni come ricerca. È particolarmente importante perché è una ricerca che dà delle possibilità di rinforzare il sistema immunitario dei bambini nella lotta appunto contro il cancro in maniera naturale, con la biodiversità alimentare, e quindi ci sembrava particolarmente indicato come progetto da affiancare per la raccolta fondi di questa campagna. Il microbiota, leggo, è un indicatore chiave per predire la sopravvivenza post trapianto. Sì, perché noi abbiamo questa flora batterica, no? Questo, il microbiota è la flora batterica che si sviluppa nell'intestino, ma che poi ha un effetto in tutto il corpo. Quindi rinforzando e aiutando questo equilibrio si ha la possibilità di rinforzare il sistema immunitario di tutto il corpo, e quindi la ripresa dopo il trapianto, che è estremamente debilitante. Però in questa campagna ci saranno anche degli eventi. Sì, ci sono tantissime manifestazioni, oltre ai banchetti ovviamente, dove noi venderemo, oltre la maglietta di Sono Cavoli Miei, anche tutti i prodotti biologici, dai semi per piantare tutti i tipi di cavolo nel proprio terrazzo giardino, a prodotti di alimentari a base di cavolo e anche le piantine di cavolo nero. Poi abbiamo molte persone che si sono attivate. Mi fa particolarmente piacere ricordare gli eventi del 29 di settembre, che sono la festa degli arrosticini, dove due famiglie, diciamo AGEOP, si uniscono a Liverniano, e soprattutto Nema Problema, l'associazione della comunità bosniaca di Valsamoggia, che ha organizzato un pranzo e una festa bosniaca per AGEOP. Noi siamo particolarmente legati perché, come sai, abbiamo progetti di cooperazione in tutti i Balcani. Nema Problema ci aiuta quando le famiglie dei bambini vengono a curarsi, e soprattutto siamo contenti perché Nema Problema ha una visione multiculturale del mondo e quindi non viene nelle nostre case solo per i bambini bosniaci, ma ci aiuta con i bambini serbi, macedoni e di tutta l'area balcanica. Poi abbiamo tante collaborazioni anche proprio per una buona educazione alimentare con la Fondazione Golinelli, con Alce Nero. Quindi sul nostro sito poi ci sono tutti gli eventi che da settembre, cioè da oggi fino alla fine di ottobre, scandiranno tempi della campagna.